Non, su internet è un corso di alfabetizzazione informatica per gli over 60 che parte da una necessità. I recenti studi, indagini fatte da Eurostat rilevano che per quanto riguarda la formazione informatica le persone adulte in Italia sanno molto poco utilizzare queste tecnologie, per cui ci siamo posti come fondazione il proposito di con questi corsi creare l'opportunità per persone che non avevano mai utilizzato un computer, ma che l'avevano visto a casa perché lo utilizzavano i figli o i nipoti, di ritornare tra i banchi di scuola e avventurarsi con queste tecnologie. È un corso che è arrivato alla sesta edizione e che ha diplomato sino ad oggi circa 4.000 internauti.